schiaccio questi rapper se dopo cambio le scarpe. Cambio Moncler solo per confondere le guardie. Ho sempre gli stessi amici, non cambio mai la mia banda. Con i tuoi amici froci litigate per una cagna, litigate per una canna. Sto fumando custo alto, sto nell'aldilà. Dark Gang 777, sai che siamo là di PG. Se non parli di soldi non so davvero che dirti. Sono in giro con toni veloci dentro al Golf GT. E sto fumando oggi, fanculo alla tua blue cheese. È mental nel quartiere, sai che lasciamo i buchi. È mental nel quartiere, sai che lasciamo i buchi. Spendo questi soldi e poi li faccio tornare. Fotti la Dark, non torni più a casa da tua madre. Siamo i numeri uno, lo giuro su mia madre. Sto di fretta a essere ricco, no, non posso aspettare. Spendo questi soldi e poi li faccio tornare. Fotti la Dark, non torni più a casa da tua madre. Siamo i numeri uno, lo giuro su mia madre. Sto di fretta a essere ricco, no, non posso aspettare. Ho un cristo d'oro al collo. Ehi, mi trovi Arione, vieni subito. Tiro fuori i pacchi dal bomber lucido. No, no, puttana, non chiamarmi stupido. I miei fratelli a caccia di stupidi. Questo Xanax ci fa stare stupidi. Sto alto, sto sul Monte Olimpo. No, pesce crudo, no, fritto, fritto. Fumo questa cush per stare calmo. Per la famiglia un buco in petto, questo ed altro. No, penso alla gang, non penso ad altro. Chiamami Tony F oppure Tony Opaco. Troia dice che sono bravo a letto. Fumo da un pacco di coca, amore, non ho tempo. No, per la gang devo uccidere in tempo. Mia madre dice che ormai ho perso tempo. Sto fumando la mia gloria, la mia gloria. Troia mi vuole fuori ora. Al polso Audemars Piguet, oro rosa. Il mio contatto c'ha la merce rosa.